alle 10 da qualche parte Giuseppe Leoncino che vi super saluta con la buonasera. Yeah, ciao Giuseppe, ben sentito. Comunque Giampaolo, non mi piace prendete come te scendo con la radio, c'hai la potenza a zero, sollevo il watt, c'è qualche manopola, lui per sollevare il watt, mettili almeno 5 o 6 quello che è, e a mezzo watt con l'apparecchio, e non sta uscendo bene, non boh. Sì, un bel strano, sì. Adesso il segnale è uno fisso e non c'hai i picchi fino a 7, però la radio è migliorata. Io la posizione di quella radio la so, hai capito Giampa? Se passa che sbagli come la regola non va bene, capito? Allora, di chi che non va mai tutto aperto? I vatti non vanno tutti aperti, li puoi lasciare un pelino aperti, i vatti, e poi va bene, capito? No, seriamente non è, va bene lo stesso, però chiudere tutto va male perché è troppo forte la radio. Però a me più che devi aprirli appena i vatti, devi tenerli appena aperti, e Michele non vuole mai aperto del tutto, vuole leggermente chiuso. Quasi a mezzogiorno. Bianco secondo, ciao Leoncino. Ciao Daniele. Michele vuole a mezzogiorno, un po', aspetta, ora. Tu prendi un cavo, una cosa del dietro, lo regoli male e va male. Ecco

bene, va bene. Yeah. finito il credito, Giuseppe. E Lupi in casa sua? Famiglia? E allora? Non è lungo. Adesso potrava niente, questa... Due, è la fidanzata, sono entrati in vita, un'Iliada. Va bene, signore mio, è questo che fa. Tutto digitale. Allora aspetta, allora guardo l'altro. 35, sono preso il precedente Washington. Poi sono 35, Bruce Smith di Canari, che prende la presa, poi per un coso di AM, SSP, era un uomo morto. La base non ce l'ha, però è carico di tutto il genere, una stagione. Ma lui conosceva il bacio o quello che lo consiglia? Non è lì, che adesso quello che ha una base, che ha la base, ora, la base, che ha aria e tutto quello che è qui, tutto fatto, la base, ed è qui, non lo fanno altro. Poi sono tutte le altre perché lo puoi memorizzare. Mi sembra che sono 4 o 5, se non me lo ricordo. Ma c'è tante funzioni, c'è tante cose, puoi regolare. In poche parole, tu il frequentimetro lo blocchi, metti il tastino, si mette quei quadratini sotto, poi sposti in certe frequenze, lo sposti manualmente, capito? Girando a gradazione, capito? Numero per numero. Cobra da base come sempre, visti qui i vecchi modelli. Beh, mi ha regalato Walter Salvucci e poi l'ho regalato, gliel'ho chiesto se lo potevo regalare, l'ho regalato a una stazione che c'era lì a Sassari, che si voleva fare la stazione fissa, che c'era un barattinetto, e poi non so che fine abbia fatto, però ancora lì col coso in legno, mi rivestimento, fece un benetto in legno, se la meriti di antichi. Ecco, non l'ho mai visto quello cobra lì. Il panino non l'ha conosciuto, il panino. Quel calzaturnecco e poi mi aveva regalato quello e ho fatto male perché era, non metto che erano 23 canali, però lui me l'aveva dato a volte perché lui li comprava, diciamo, perché lui li collezionava, cioè come essendo collezionista li prendeva dall'America o gli arrivava così a blocco, e in mezzo c'era questo, e invece essere normale era, aveva delle modifiche. E invece avere solo 23 canali ne avvia, va via un altro pomello, che tu gira per il pomello e aumentava, e aumentava dei canali, saliva sino a 50, mi pare, al 50° canale salì. Sì, vabbè, ma uno che, come ti dico io, non so cosa chiamo attore, per a chi devo trattare. No, quello era un bello, perché era bello, perché lui li prende per collezione. Poi cosa succede? Quando vede che sono modificate, lui li colleziona, ma devono essere originali, come nascono dalla casa, hai capito? Se poi hanno delle modifiche, no, non va più, capito, non è più originale, capito? Ecco perché me l'aveva regalato quello lì. Ed era un bello, era il legno, capito, grande, quelli fatti in legno, di antichimi, con un coso umano, era, mi sembra che era 220, neanche a trasformatore, era, allora aspetta una cosa, era la corrente a 115, a te in America, ma non me la mette, perché mi trasformato, lavorando in Giancarlo, quello che c'era a Terraba, che gliele faceva lui, i cosi, l'aveva trasformato a 220, aveva messo il trasformatore a 220, me la mette ancora, e funzionava a 220 quello lì. Sì, così, basta cambiare il filmato. Perché tanto sono 115, poi hanno riuscito a dare 12, 18, insomma, secondo me è riuscito. Però non faccio la rischia, che faccio la corretta. Che cosa sia, no, fare il progetto, alimentare la musica, se la mettono Giampa, 27, 71, 73, 74, cioè più che non fare tanto come la mia, io ho anche qua, non mi fa, non mi sono andato alla penale, infatti io soprattutto ho fatto questo, ho fatto tanto di tutto il mondo, no? I collegamenti, allora era bello perché, vabbè, la comunità era questa. E infatti io avevo preso anche un po' di milano, non avevo più la quattro minuti, che ero ancora qua. E lo chiamo la direttiva, ma sempre non si è, ma come dire, non si aspetta ascoltarello. Quindi allora diciamo, la propagazione era molto aperta, invece avete un doppio chiuso per il sistema circolare. E quindi è così, però la divertimento era minimo, insomma, la parte fastidio era una volta che due ogni giorno, a questa zona almeno, quindi. Poi sono pochissimi, c'era sempre una guerra, invece un po' più su, cioè potevi collegare i due flussi per fare il problema, no? Che a lui, a lui, a lui, a lui, a lui, a lo so, lo so. No, ce l'ho, non lo sto mai adoperando, io ce l'ho uno nuovo che non lo adopero, ma lo provo ogni tanto per farlo girare, per fortuna è a transisto. Queste di per la 27 qui da casa, ce l'ho un B507. Nuovo nuovo ce l'ho una scatola e tutto, nuovo nuovo, ogni tanto l'attacco per provarlo per a Botino si guardia, ma no, non è a roba da guardarsi perché ha transisto e no. E ho visto che già va, eppure c'è diversi anni, ma è nuovo nuovo nuovo, infatti non lo, questo non lo adopperò mai. Ce l'ho qua, però è staccato da una parte dentro la scatola e non lo adopperò mai, non lo adopperò. Mi è capitato occasione di venderla e non l'ha aiutato, mi ha detto ma poi mi posi fi, ma mai cosa? E ce l'ho lì messo dentro la scatola a parte, dentro il mobile. Niente, ho detto lo tolgo e lo faccio per farlo girare a scaldare se funziona, quindi già funziona sempre, da poco l'ho provato. E ce l'ho lì, ma non me ne faccio nulla lo stesso, no, ce l'ho ma non l'adopero. Funziona ancora, accende ma non è, è solo finale corso. Poi al finale costano 40 euro l'uno e alla fine non ho mai riparato, non è solo niente. Perché basta che prendere un legnale così da questa parte, uno di questi altri, sugli finali, adesso sì, ho 1300, anche 1303, vado ai 40 ai 10, loro vanno a vedere più stretto, ma comunque lo fa anche 40 euro e va anche alla grande, ma non c'è altro fatto a fare 40 euro, e più scende più, non è più la pubblicazione del verde. E si dice che quando riguarda, c'è una stazione, mi c'è sempre un bello, preso il stretto, il compagno, il nuovo volume, questa strada, io non lo so neanche. E poi anche a me per 50 euro non è fatto. No, vabbè, sono un partito, ma anche io faccio. E adesso, vado a Parma perché è tutta un'altra cosa, anche perché la volevo essere molto più pulita, più bella, insomma, tutta un'altra cosa. Il partito che è sempre a far uscire un po' la lavorazione del prezzo, che mi voglio dispiegare. Perché non è Vapore, non c'è, non c'è, la prima volta che andava a Vapore è gelito. Poi uscì, vabbè, adesso infatti ne ho qua più lineare a Vapore, ma lui non lo so, quindi non c'è, infatti uno lo deve portare, non avete un po' di tempo, non c'è, non c'è, non c'è. Poi uscì, le cose che non lo so, non lo so, non lo so, perché si è appena cosa ne fa, troppo lungo. Non sono la sopra a tenere tutto questo materiale per trasportare un gas tipo fatto e poi quando vai a tenere magari non lo sopravano anche uno, no? Beh, giustamente è così. No, lo so che vuol volare, a parte che dà meno, diciamo, disturba di meno anche, manda meno, meno cose del transisto e la radio è molto più veloce, ma lo so che è molto migliore, solo che la transisto è più attaccata a un coso, il baracchino sta accendendo ed è già cosa, invece la valvola deve fare deve fare più scaldare, ecco, non so. No, io ce l'ho questo qua, però ce l'ho sempre fermo, avevo fatto il cambio con altre cose. Diciamo il finale, ma cosa è quella due finali? C'hai tu come questo qua, cioè io per esempio ne ha due finali, poi c'è quello altro più grande che ne ha quattro finali. Tu quale c'hai? Quello a due? Grazie. Non va detto che il mio Uriani 4, no 2, 4, era chi doppio manno. E in poche parole c'è un alimentatore grosso, enorme, e l'adopero come alimentatore per provare altre cose che faccio io a volte qua, dai. Mi serviva e mi sono fatto un mi sono creato un alimentatore, ho tolto tutto, ho svoltato, ho lasciato solamente l'alimentatore con tutta la roba sua dentro, anche l'avvento, ho tolto tutto, e mi sono fatto come un alimentatore, l'adopero come alimentatore. Perché tu pensa quegli alimentatori che ti hanno dato il dispetto, fatti il conto, dovrebbe avere almeno 30 euro, almeno. Quindi non è male, perché quando vuoi 30 euro, sempre buono, insomma. Però il presidente non è che sia molto, cioè non ha un rappresentante perfetto, quindi secondo quello che è molto bene, per comprare l'ideale va bene, ma se hai qualche cosa di più delicato, quindi non può fare tutto gli alimentatori. Infatti che tu vedi lavorano soprattutto come sono una corretta rappresentante, capito? Perché non ha stabilizzatori per correggere i bassi pianti, i piccoli correnti, comunque va bene, giusto per trovare così finali. Lineari, capito, a 24 quelle del camion, li provo con quello lì, se no per quel motivo lì le prova, le fa andare bene, le pilota bene, per provarle, infatti me l'ha chiesto uno, non questo, non il 507, quella due finale, quello bruciato, me l'ha chiesto un amico mio che fa, che ripara, fa riparazione e cosa, mi ha detto se glielo procuravo uno per fare delle prove quando fa lavori, per lavori lineari e cose del genere, per provarle se glielo buscavo uno, per farsi un alimentatore anche lui, dai. E infatti io perché non l'ho buttato, anche perché alla fine è utile, perché tu trovi per esempio un bis, per esempio un 7, un 750, con un 22, un palottino, per esempio un 7, un 7, per modificarlo, se c'è niente, a recuperare il finale, nel caso che non puoi comprare, quindi da chiave o quando non vedi, ma un personaggio non vedi, uno fa questo. Una volta che questa a me Vanni, allora io il 501, quello che c'avevo in cambio è gemello di quello che c'è dentro, io quello lì lo adoperavo esternamente qua, l'attaccavo e lo facevo pilotavo così, tu non c'è bisogno, quello tu trovandone uno di camion te lo puoi modificare anche quello là a me, e lasciando quello lì e quello lo adoperi come alimentatore me. Buscandotene uno buono di camion, anche il 501, io l'ho dato 120 euro, l'ho dato, lo sai, ho dato 120 euro quello a 24 del camion, tu lo collegavi lì, attaccavi lì, tu staccavi i fili da quello lì, collegavi lì e stava funzionando, Io lo so che funziona così, e certo, se è quello là lo so che ce lo metto dentro, non è che cambia niente, non so come si dà, lo so, sono alimentato. E portarsi fuori in piedi, oppure si viene a come gli non so, io non è un problema, però non è un problema, il problema è trovato, non guardo, non c'è un ragionamento, però siamo qui un po', il modello 303 che è possibile modificarlo e lo inserisco. Sono tutto lo schema, io tutto ciò, so che non voglio dare, tutto lì, perché intanto ancora non si è acquistato, ma il tempo buono, lo metto, intanto ci vuole più di voglio farlo, devo fare il circuito e metterlo, togliere l'uscita, chiudere con l'uscita e montare il tempo. E va bene, però ho visto che funziona anche in 40 e lo sto lasciando lì, e quindi, va bene, guarda i specchi adesso hai 30 metri, ma dico che molto bene. È positivo. No, io qua ce l'ho, viaggio il nuovo volume, però non lo do, Vanni, mi ha chiesto qualcuno e non l'ho dato, ce l'ho lì, no, non mi so come dire che non lo adopero, è fermo da parte, non lo sto adoperando quello lì. Però non lo do, dove qualcuno lo gareate, qualcuno è un altro. Perché poi non c'è spazio di niente, adesso mi arrivo nel lineare e non sono un altro. Ecco perché lavoro anche più nel prestato. Lo sì, in realtà bisogna capire cosa vuoi, cosa scegli, cosa vuoi fare, sono alimentazione, sono felice di Dio. È positivo, io ne ho uno marino, che l'avevo preso quando ho preso il coso di uno da, che aveva tolto la stazione, l'avevo preso io, e avevo preso tutto, anche, tutto io avevo preso la stazione lì, e diciamo gli apparati, quegli altri che non potevano operare, quelli se li ha presi tutti Claudio, se li ha portati via Claudio. E niente, mi è rimasto questo marino, questo VHS marino, l'imbarcazione, che lo voleva un amico, l'ho lasciato lì, avete pensato che un paio d'anni e si presentano mobili in Chivi. Ma io l'ho regalato, uno di questi, no, non già lo mattina, a parte non c'era niente, se non lo uso, non lo uso mai, ne ho un altro, forse sono comportato in Chivi, o in Chivi, quando sono lì da spaziare, sono lì da come vuoi portarti, microfoni a ognuno, non c'è, la messa per un campo particolare, la sai, e quindi niente, ma la roba che è, adesso vado più, non è faccio niente, sono anche perché tu non la mi faccia, tu schiaccio tu, tanto se no, a posto della serra di tanto mi viene con la ricetta di andare a prendere, e lo ammetto, non mi è un pezzo, capito, non mi interessa, faccio fuori le cose che non mi interessa, ma mi tengo il minimo giusto per pensare, perché intanto funziona così, anche perché quando ne hai tante alla fine non pensi di fare niente, no, non te la resta prima, una alla volta, vabbè, anche perché vabbè io vado su da sette volte, per esempio, uno per una cosa, uno per l'altra, uno per l'altra, e quindi siano e così anche su due, due, anche no? Cioè ho un'antenna per ogni quasi frequente, però alla fine non mi va bene. È positivo, positivo. No, io adesso a comprare cose non compro più, non mi interessa più niente. No, infatti non so, no, adesso più tempo di comprare, io questi quei pochi di baracchini che ho mi tengo quelli lì, ce l'avevo qualche radio bella e niente, poi dico la verità, tutto a Claudio, la maggior parte ho dato tutto a Claudio, le radio che mi avevo fatto comprare lui stesso è tornato a Claudio, poi e tutte quelle radio avevo preso da Salvatore Maestrale qua, che io non le potevo adoperare, le ho date tutte a Claudio, avevo preso tra stazioni, ho salvato. Poi ultimamente c'avevo un'altra cosa, penso che gli interessava a Claudio sempre per gli amatori. Abbiamo fatto un cambio, il baracchino che sto parlando adesso, ma ho fatto un cambio con Claudio, a lui interessava più di me, a me non mi interessava, era un qualcosa che a lui serviva, che non ce l'aveva, gli mancava nella collezione e niente, capite? Poi tutte queste cose infatti le fate tutte fuori, tutte non è una, cose che non sono fuori dalla 27, non è. Le ho tutte, non le ho date, le ho date tutte via. Sì, non è che ti dici, non servono niente, non fa niente, almeno, perché a questo modo, tanto se ti dici, perché poi tu non ce ne è, quindi è meglio prendere la persona, quindi sto facendo, almeno io, adesso per una chiave particolare, diciamo, ho dato via altre cose. Ho via altre cose anche perché la parte che ho tirato qua non è piccola, cioè pieno, non è piccolo, non ce ne stanno altri. Infatti voglio dare il 140, anche perché ne tengo il 180. Poi ho anche il 756, insomma ne ho altri, ho due colabri, ho un altro 5, cioè non ne ho, alla fine, ma non ne ho. Quello che dare, quello che non ho finito e poi. Ma sì, ne ho tre, per prendere il 54 perché va bene, va molto bene, e tengo questo. Ne ho altri due aspetta, ecco, c'è anche gli altri, questo è il turbo, cioè, c'è la fraccola, quindi sta scappando. È anche bellino, ma infatti è stato pulito. Quello già, come ho detto, c'è un successivo, perché come la chiedi ha un problema, no? E grazie. E quindi viene da subito, ma è successivo. Ma non è giocato, e quindi è ancora corretto. Adesso appena che ho tempo l'ho messo, io seguo questo punto così, perché la pescata non ho tutto, è l'unica cosa che mi manca, poi ho dato un po' di materiale per altro, ma alla fine serve a te pagone, è imbarazzino, tutto, bisogna andare via. È positivo, no? Io per esempio ho questi che hanno qualche cosetta che puoi andare nel FM, puoi andare a telare, ma vabbè, sono 5-5 fatti, ne gioco a 4 che hanno di più, ne ho, vabbè, ce ne ho qualcuno che fa dalle, da 25 a 29, 29 anzi 30 e 31 pure arrivo, 32 mi pare. E via, che ce le ho lì, ma non le accendo quasi mai, capito? Tanto non ci vanno mai quei canali lì, e accendo questi che arrivano ai 40 canali e poi andano sopra, sotto e che vanno a laterare. Sto operando più o meno questi e basta. Oh, ma infatti anche se va a questa mia, l'ho già fatto, diciamo, non vorresti dire, non riesco a fare niente. No, vabbè, tanto poi alla fine quando hai 40 canali, per vanno a laterare, già... Se poi lo fai di esse, tu riesci un po' più su, che è certo di lì. Usare la CCB, non è, diciamo, va bene anche, va bene anche, capito, quello che è il CCB, sta canale o l'altro. Tanto giorno mi vedi a gamba, dovresti subito metterti a posto, così adesso vediamo cosa fare la loro, qualche buona notizia, qualche cosa si farà. No, io adesso devo iniziare anche se lo trovo un altro 140, anche se tu sapessi, mi servono i tre finali del 140. Che ho già ordinato, si può dire, però mi dovete ordinare la raccolta alla fine, perché quelli che ho comprato prima, che scoppiano, non vanno bene. Infatti se alla fine è uguale, ma anche quanto le cose. Bastardo, via. Anche quello. E quindi tra poco me li vedono, li faccio arrivare direttamente da un lavoro del paradario, questo che faccio spesso a piacere, via. E sì, voglio dire, fare un altro, lo penso da una parte. Però alla fine, tu, se mi viene, se mi viene, se mi positivo, no, già lo so, già vedo pure quel 19,69, no? Si dà pure un po' più di arancia, però un po' quante attende vai lui ieri, perché già è importante e sono bruciate d'ora nel binare, non andare. Non lo so, no, che non lo so che ce l'ha rotto, io ce l'avevo e l'ho dato a Claudio, nuovo però, con l'MC60, ce l'ho dato, l'ho dato a Claudio, dai, e poi cosa abbia fatto, non lo so. L'ho dato a lui, ce l'avevo, ce l'ho avuto un po' di tempo e poi l'ho dato via, l'ho dato a Claudio. Ecco, è tenuto, buonasera. Ciao, già. Ciao, Giorgio. Yeah. Oh, mette bene, quindi che quando, cioè, se rompono, se si deve risultare, fa bene, quindi. No, è solo, infatti non lo faccio fare. E io mi sono morto, se non sbagliato la casa, dalla chiesa. Però quindi vi vedo sicuramente solo altri venditori autorizzati, cioè oggi a successo non le danno in comune. Sono diventati più gentili, mi sento che fosse male. Gianni, Gianni. Cazzo, perché finali ti sono partiti, va? Finali del film? No, le ore che non c'erano, no, le finali, perché di finale ne ho anche tre, il finale che mi ha fatto fare, mi servono i tre finali di uno, che poi il 140 sono stato anche uno uguale. Beh, su internet non ne hai trovato? Magari qualcuno che li prende a seconda mano, anche di apparati demoliti e cose. Non c'è, non c'è, non c'è. diciamo va, va. Sì, questo è che sentiamo il suo stato. Questo parte è quello che ha fatto, se lo vede anche il 440, non sa considerare che ha fatto un errore, non so, io non lo sa. Perché anche il 440 monta il suo scenario, se lo guarda. Diciamo che è il nostro scenario. Certo, però i componenti sono qua. Direi che adesso farà una cosa, Massimiliano, quella radio che c'ha lui, lo stesso, quei finali suoi, gli originali, ascoltavano una vacca di Dinà, e poi ha chiesto a questo Luca, sua Perugia, e gli ha detto vanno bene anche questo tipo di finali, gli era mandati lui, i finali. Addirittura esce anche più potente la radio di come era del coso originale, perché a volte ci sono qualche altro tipo di finale che si possono abbinare, hai capito? E adesso bisogna vedere se sono tipo quelli del lineare finale, hai capito? Quelli a quattro piedini, tipo quelli del finale dello 750, di chi si fa il tutto, sono tipo i finali così sono. No, i tre finali, i finali sì, ma sono i driver, i tre finali di questo, dal 740 in su, fino al 440, non si possono adattare, non ce ne fanno solo più. Ho capito, già chiesto, non so perché quello di Massimiliano, poi Massimiliano ha chiesto a questo, gliel'ha mandato e gliel'ha montato il cognato stesso, ho visto che sta funzionando quella radio, però non lo so, gliel'ha messi, non sono i suoi originali, gliel'ha messi questi altri che gli ha detto questo qua di montargli quelli che andavano bene, se potevano abbinare benissimo. Bravo, no? resto di applicazione del materiale. Io ho chiesto se avesse disponibilità di questo istituzionale. Mi ha detto no, mi ha detto, ne ho solo uno, e così mi ha detto, no, guarda, che mi servono tutti gli altri, che ci sono, che non c'è bisogno, che mi ha occupato di mandarlo. E mi ha detto, guarda, ha scendeggiato, perché gli piccini sono circa 3 settimane a mandarlo, sono sempre studi e queste le macchine, mi ha detto, è un disastro, bisogna telefonare, cioè, bisogna mandargli un fax e poi, dice, se non è fatta niente per lui, per lui è stato fatto, tanto sono le vacanze, queste feste, ma spero, fino a possibile. Se lo metto direttamente nuovo, faccio un lavoro ben fatto e via. perché l'avevo tutta ripristinata con Fabrizio, l'avevamo cambiato l'attacco del PL, quello quadrato che si è arrugginito, la prima cosa che si è arrugginito l'avanzo fu quello. Quello lì l'abbiamo messo il filo interno, quello della massa l'abbiamo messo nuovo, più grosso. E insomma l'abbiamo fatto, il cartone uno di stazionale mi dà anche senza radiale. Quando prendo un'antenna, per esempio, nei miei filari, no? Non nella massa di terra, non c'è niente. E anche se lo togli uno, non è costato, funziona l'antenna, funziona sempre, capisci? Marco te ne accorgi, ci avrebbe meno un po' di più, capisci? Marco te ne accorgi, non è che sia proprio essenziale, essenziale, essenziale, capisci? L'antenna funziona uguale. Vero, la dai dietro un codice, sicuramente sono lì. Ma non credo, io per me saranno forse le 30 o le 40 al massimo. E boh, lo sai perché non li ho misurati io. Praticamente ho tolto i vecchi, li ho misurati con i vecchi senza usare il metro, capito? Ti ho fatto la misura dei vecchi che c'erano, quelli che erano tutti vetrificati, già pungevano pure, fatti lungo. Sì, ma quelli lì lo sai cosa fai, prendi un pezzo di cazzo da pulire, quindi un po' di resina e un po' di sodio, la vede la... come le bugie del nome. Allora, se la fatti sopra e ritornano bene, lucidi e perfetti, noi, via di là, o qua, c'è un compagno di chimico che c'era per farla, la vede la mette più chiara, no? E mette tipo un metro. Catalizzatore? No, il catalizzatore serve per farla catalizzare la rete, l'altra è lui, ah no, la parafina, scusami, mette un po' di parafina, un bottiglione di parafina e ti dà la sensazione che quando cuoci la bottiglia è svezza, uguale, liscia liscia. Lo so Vanni, ma erano anche frasichi, perché come li abbiamo svitati si sono spersi, uno si è spezzato, capito? Erano i blu frasichi, 10 anni c'era. Sì, lì all'interno c'è un filo di orlando, sottile, sottile, lungo, e così. Ma comunque funziona un assetto, non si preoccupare, l'antenna risponde uguale, uguale, uguale. Sì, tanto è vero, ieri ho parlato alla Germania, con la Polonia, tranquillamente. Però vabbè, sarò pignolo io, se c'ha 5 radiali 5 le deve avere, no? Se abbiamo studiato così perché per qualche motivo, forse come piano di massa ha bisogno di 5 radiali. Sì, è il piano di riflessione dell'onda, ma comunque non è un problema, così quindi va bene, comunque se la trovo che ce li ho comunque di raggio, non è un problema, è così, va bene alla grande. Va bene, sì, sì, c'è il mio, ma dico, se ne ho messo non succede niente, se non ne ho messo non succede niente, lo stesso, non è che c'è un grado, è così. Ma se adesso non è stato, non sembra che mi devo controllare le coppie. Gianni, dimmi se sono stato per favore, ciao. Giulio, ciao, buonasera, prova a fare un passaggio lungo. 1, 2, 3 Gianni, attenzione Gianni, come stai? Tante saluti, famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. A te giù. No, non sei stato, sei appena compresso, ma compressibilissimo. Perché sono abbastanza la potenza dell'apparecchio, perché voglio utilizzare il 747, non sto abbastanza, aspetta, che se faccio così, adesso l'ho abbassato appena, appena ancora. Diciamo, l'ho passato in circa un po' fatti ancora. Ma è sempre complesso un pochino, ma non è una cosa giusta, invece è una cosa irrisoria, non è appena appena. Praticamente te la rendi un po' compressa. Ascolta, guarda anche lo Twitter anche, guarda. Dimmi la variazione anche. Adesso dovrebbe essere molto compresa, perché l'ho messa al massimo, l'ho messa la potenza dell'apparecchio. Allora al massimo. Un passaggio, aspetta già un attimino che ti assegno qua, ecco, secondo passaggio, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, tanto il segnale però guardami già in vari passaggi, scusa. Ecco, adesso l'ho passato ancora, anche poco fa. Dimmi nei vari trapassaggi cosa è successo, se hai vari pensiero. Allora, mi stavo affidando gli occhiali, prova di nuovo a farli, così ti guarda anche segnare. Allora, intanto dimmi se che non è compresa. Sì, ho un pochino, ma non più di tanto. Allora abbasso ancora un po', ecco, adesso ho abbassato ancora un po'. Adesso com'è chiara la voce? Non è chiara chiara, ma è più chiara, va. E sono per 25 di segnale. Ok, e allora siamo lì. Allora siamo bassi. Ecco, adesso ho abbassato ancora, allora siamo troppo bassi. Tanto male che arrivo sempre nel vignaretto con quel segnale. Adesso l'ho abbassato, dovrebbe essere ancora più chiara. Sì, però mi deve fare una cortesia, stacca e poi riattacca. Ok, allora adesso ho staccato il lineare, in questo momento è attaccato, sicché ha un segnale. E così è attaccato di nuovo, vedi la differenza intanto. 9:15, 9:20. Allora non funziona bene. Non funziona bene perché ti arrivo senza il lineareto 9:20, 9:25, sicuro. Sicché, mentre invece se io questo lo sollevo così, ecco, adesso in questo momento ha 5 watt e mezzo di potenza l'apparecchio, però ormai satura. Un po', non satura, no, non è proprio satura, è un po' compresso. Se mi allontano così, ecco, 1, 2, 3, vediamo un po', adesso mi sono allontanato dal microfono, ci sente te per questa parte. Sempre un pochino, ma di meno però. Ma io penso che potrebbe essere anche dal microfono. Magari mettendo un altro microfono riesci a, diciamo, a modificare la voce. Corporarsi, non lo so. E se la passa un po', ecco, l'ho passato il microfono. Cosa è successo? Niente è successo. L'hai migliorata. Allora la passa ancora. Ecco, così. Però dimmi se va bene, se è forte, se no è stato male. Ma è un tantino, ma proprio per essere pignoli, però è molto più chiara di prima. Ah, ho capito. Allora anche questo è il microfono, prima è a uno, così che ti puoi immaginare. Quindi se la passa ancora lo chiudo completamente il microfono. Sto usando io il bravo saletta, capito? E vabbè. Mentre invece se aumento tutta la potenza della radio, così guarda il segnale. Adesso non lo so, adesso è esatto. Ma dimmi il segnale così come adesso. 1, 2, 3, prova. Quasi 9:30, dai, quasi subito 9:30. Comunque Giulio, come mai adesso satura quel lineare lì? Se prima non saturava, ma come mai? E quando lo saturava, se non l'ho mai usato. Se deve poterlo messo, ho saturato sempre. Non si può sempre dire lo vogliamo, ma non lo voglio usare, capito? E allora ho pensato di abbassare l'ingresso della parete. Vediamo un po', adesso lo metto di nuovo, ok? Adesso è a 5, ecco qua, così è a 5 watt, è stato nuovamente. Allora sono male che è sempre 10 watt, perché questa maniera non è là 10 watt, nello strumento perlomeno, me ne segna 8 massimo, e è solo male adesso che non saltano quando uno aumenta la potenza. Tu le avevi cambiate il finale, quello non ti era partito a te. Sì, ma questo qui è un altro ancora, questo qui è un altro, l'altro non lo c'è nel cassetto, questo è un altro ancora, questo è nuovo, non è stato mai toccato. Allora, 747 io lo uso con 30 watt e non mi satura. Quando ho dalla macchina io lo uso con 30 watt di apparecchio e non mi satura nulla. Tutto su quella lista, allora non funziona su questo apparecchio, basta. Allora lo metto a parte, che se qualcuno vuole loro. Va bene, d'accordo già, grazie per i controlli. Lo rimetto a posto e rimetto la potenza dell'apparecchio al massimo come deve essere. Ecco, la potenza l'ho già aumentata, adesso stacco, ecco, guarda adesso il segnale già. Poco fa ho detto 9:30 quasi, adesso com'è? Adesso che è staccato? Aspetta, metto gli occhiali perché non ci credo. Beh, ok, dai, si mette gli occhiali, adesso sono senza lineare, però la potenza dell'apparecchio è tutta al massimo. Avanti. Di 9, vai, da 9 a 9:20, quasi. C'è da lineare un'altra bufa. Indubbiamente. Ciao Vanina. E ciao Massimiliano, mi sembra. Se non sbaglio. Vabbè, vi ringrazio, dai, chiudo tutto e lascio così com'è. E non rimane se lo bavo la macchia se lo lampo. Vabbè, grazie, riprendi già. Aspetta, aspetta. No, devo buttare, che quello va bene anche in HF. Lo so che va bene, però bisogna metterci un condensatore in HF, già lo so, già lo so. No, da poco che l'ho preso. Da poco, sarà 2 mesi, non di più. Però non mi va bene, mi salto la panica e non mi piace, quando l'aria salta a me non mi piace. E allora preferisco più meno segnale e più radio bella, però. Così che la penso io, Vanni. Guarda, come sta uscendo la mia radio? Io ti sento benissimo, non ci sono problemi. Perciò 10 watt di entrata con 747. Luciano, cosa vuoi che ti dica? Intanto dimmi segnare come adesso, non me l'hai detto non segnare, solo l'apparecchio. Così tanto per rendermene conto. Sei quasi 9:20, no. E allora già va bene, non c'è bisogno. Vabbè, prima era quasi 9:30, sicché non è questo grande. Sì, vabbè, il guadagno certo che c'è, però non già va bene lo stesso, già mi sento ugualmente dappertutto. Ti ringrazio, dai, riprendete, che domani rientro dopo. Adesso chiudo l'apparecchio e non se ne parla più, dai, lo rimetto a posto come era. Ok, grazie. Riprendi, Vanni. Girare dietro, non sto collegando con l'antenna nuova. Va bene, non te la buttare che già è utile. Ehi, Santiago 7, sì, come mai? Ho capito, sono Santiago 7. E poco fa quant'è? Poco fa di più, mi sa. No, guarda, è solo qui fa due. Puoi fare? Va bene. Massimiliano, buonasera. Non risponde, riprendi. Ah, vabbè, c'è Giulio, si sta aggiustando l'apparecchio. Mi sa che vi saluto e me ne vado tutto a dare una bella lavata a prepararmi per stanotte. Kappa. Ciao bambino, tanti auguri, ciao anche a tutti gli altri amici. E io vado a darmi una bella sciacquata perché sono tornato dal lavoro, un po' mandronato, stavo mettendo a posto il mixer perché stanotte devo attaccare karaoke, eccetera, eccetera, sto regolando, facendo. Preparato pronto con le regolazioni giuste, tanto per usarlo, sennò poi mi tocca lì assillarmi e fare. Massimo, non mi raccomando, ma allora, ciao a tutti e tanti auguri a tutti, buon anno. In campagna siamo quindi poco da battibolo, ma la vatta, tanto per, diciamo, per sciacquarsi, per darti una rinfrescata, ma grazie a Dio non ho giocato un bussamare della doccia qui. Va bene, è importante divertirsi. Va bene, dai, sentiamo. Ciao, Vanni, poi c'è come problema, l'anno scorso siamo ripresi di brutto, caro.